Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, dunque Coppa Italia time, abbiamo la prima semifinale, sarà l'ennesima di Siena contro la prima volta di Montegranaro. Ieri Siena ha battuto non senza soffrire la Scavolini, Siviglia, Pesaro che ha giocato una grande gara, che all'inizio dell'ultimo periodo di gioco era ancora avanti i due punti, poi c'è stato questo break finale senese e dunque è finita come tutte le altre volte. Montegranaro ha battuto una Virtus Bologna che a Torino non si è presentata, almeno come anima e come spirito. Adesso si tratta di capire cosa succederà dall'altra parte del tabellone. Meno di 4 ore alla partita con Avellino, la più importante del suo governo bis. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio coach. Ciao Carlo, ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Come stai? Sei concentrato? Ovviamente sono qui in camera all'albergo parlando con voi e sto aspettando la partenza poco dopo le 4 per l'Arena e ovviamente ci aspettano Avellino, una squadra piccola, tosta, veloce, in grande forma, quindi non ci illudiamo di per niente, è una partita tosta. Dovete ritrovare la strada nel bosco dopo due sconfitte brutte. Avevamo trovato la strada, cioè proprio grande umiltà, sputare sangue, cioè giocare insieme, lavorare con la palla, fare la difesa, lavorare, un po' di pressing, un po' di contropiedi, cioè, le cose normali, non c'è mai una chiave magica, rivoluzioniamo tutti, cioè, bisogna prendere le cose ABC e lavorare molto bene con quelle cose lì. In queste due settimane, non lo so, perché anche dopo Treviso abbiamo cominciato a lavorare, ma anche prima di Treviso abbiamo cercato, però diverse cose vengono dentro, ovviamente abbiamo avuto settimana, di solito i piccoli infortuni, c'è Mason Rock a tre punti in testa, perché ha testato contro Petrov che ha perso un dente, rimesso il dente, cioè quindi sono piccole cose che succedono, non per Petrov ovviamente, povero, che è proprio il dente era per terra, ma tutto il nostro staff medico è un caso strano della vita. In tribuna, nella piccola tribuna lì, sì, al Palalido, c'era un padre di un paio di bambini che giocano in vivaio che stava guardando il metodo. Chirurgo maxilla facciale, cioè proprio lì non potevamo ordinare una cosa più efficace, sì. Poi ha chiamato lui il dentista, il nostro medico è andato, invece lo stesso, e l'hanno rimesso il dente a posto, con paradenti, cioè lui giocherà adesso, e per un momento sta tenendo, ovviamente si sa dopo un mese, però siamo contenti per Patch perché è una cosa fondamentale. Sì, senti cose, l'impressione è che l'inserimento comunque di Lingrier, uno che vuole la palla in mano, qualche problema te l'abbia creato, qualche problema di chimica o no? Ma qualsiasi innesto, okay? Cioè, stavo parlando con Romano Cairo, che è presidente del Torino Calcio, come sai, è anche il nostro seguitore della squadra. E lui ha detto: Dan, la cosa più difficile nello sport di squadra sono i innesti, i nuovi giocatori che arrivano, perché scombussola tutta la cosa. Però era necessario, perché francamente detto, cioè Lynn Greer era anche un pochettino come Morris Finley, c'è un giocatore che è un tiratore, un realizzatore, uno che ha la palla, cioè Morris è fuori ancora per almeno 6 settimane, forse deve operarsi, quindi il cambio non era che abbiamo tagliato un giocatore. Morris è sempre il nostro giocatore, abbiamo semplicemente sostituito lui con Greer, che è un giocatore che ci può dare qualcosa, ci ha già dato qualcosa, quindi speriamo di aver, con il passare di tempo, assorbito questo impatto. Poi ovviamente Benjaminese deve inserirsi, Petravec sta tornando, quindi ci sono diversi shock, sì, che abbiamo dovuto, per questo non ho voluto aumentare gli shock alla squadra con rivoluzioni tecniche e quelle cose lì, sto cercando di tenere le acque più calme possibile. Certo. Senti, io, tu non mi vedi, ma io ti seguo ovunque, ti ho visto sulla TV web della Gazzetta con Pianigiani e vi siete passati la palla della favorita, eh? Vinci tu, no, vinco io, ma chissà chi la vince. Ovviamente loro sono favoriti, questo è poco ma sicuro. Grazie, non c'è Pianigiani che dice che è favorita Milano adesso. Non c'è, bravo Pianigiani. Noi dobbiamo dimostrare questa storia. Lui ha già vinto una partita. Era una partita, fra l'altro, molto complicata ieri sera per loro. Era 53 pari dopo tre quarti, cioè entrando l'ultimo quarto, e 60-57 fare in mano a Pesaro, 5 minuti da giocare, quindi c'è uno legge il punteggio finale, dice se ha vinto comodo, mentre no, se lo dice lo stesso Pianeggiani, ha dovuto faticare moltissimo e Pesaro aveva la sua possibilità. Poi, come tu hai detto, Carlo, l'altra partita, non è che la Virtus sia necessariamente presentato in maniera sbagliata, Motti Granaro ha fatto una partita splendida, c'è proprio lì complimenti a Stefano Pilastrini, la squadra cancelliere ha fatto solamente Cincerini ha fatto solamente 4 punti, ma è stato bravissimo lui, ma bravissimo a gestire la partita. Cavaliere sembrava Rajon Rondo, hai capito? C'è proprio, hanno giocato benissimo. Ivanov è stato formidabile, tiri da tre, canestri da sotto, di tutto, tutta la squadra è girato, anche Jones e Alan Ray hanno giocato divinamente. Cioè, la squadra che per me, per i miei occhi finora, ha fatto il gioco più bello che vedo quest'anno. Hai ragione, coach. Senti, prima di salutarti e lasciarti al training autogeno, c'è un ascoltatore che lo chiede via SMS, ma te l'avrei chiesto lo stesso io. Perché la Coppa Italia di Cesare Rubini, il papà non solo dell'Olimpia, ma della pallacanestro italiana, come sappiamo bene. Assolutamente, cioè, se posso rubarti un secondo, Carlo, certo. Per dire, il basket in Italia, prima dell'impatto, diciamo, negli anni 50 e 60 di Cesare Rubini, era uno sport di nicchia, okay? Non era il secondo sport, era uno sport tutto lì. Ma Rubini, con la sua grande personalità, il suo personaggio, le dichiarazioni, la sua presenza, il principe, le scarpette rosse, tutto, ha reso il basket grande. Quando dice lui, veramente il padre del basket moderno post-guerra in Italia, dice solamente la verità, e questo solamente è una piccola parte della sua grandezza. Non parliamo di pallanuoto e di tutte le altre cose che ha fatto, veramente un personaggio che abbiamo detto tutti ieri, eravamo lì al funerale, più grande della vita, non si può neanche misurare quanto era grande lui. Sicuro. Grazie coach, in bocca al lupo. Grazie, caro. Ciao a tutti. Ciao coach, in bocca al lupo, questa sera alle 18, quindi tra 3 ore e 45 per la precisione, facciamo il countdown già che ci siamo. Coach Dan Peterson e l'Armani Milano contro l'Aira Avellino, cliente difficilissimo soprattutto in questo momento, a seguire 20:30. Secondo me il quarto di finale che rischia di essere più intrigante e più spettacolare, cioè Bennett Cantù, Angelico Biella. Traffico, poi continuiamo a parlarne insieme, 800 24 00 24, numero verde per intervenire e magari anche per fare i vostri pronostici su questa Coppa Italia. Chi la piglia? Vediamo. Palla spicchi. Non sono mai riuscito dall'inizio della stagione a fare programmi a lunga scadenza. Mi aspettavo, speravo di passare il quarto, poi speravo di passare la semifinale. Quando siamo arrivati in finale speravo di vincerla, è successo grazie ai miei giocatori che hanno giocato una pallacanestro formidabile, ai collaboratori formidabili che ho, tra i quali Tonino Zorzi, al quale va un ringraziamento particolare, e a tutte le persone che lavorano nella società. Questa non si vive di ricordi o soltanto di ricordi, però questa voce d'archivio di ormai 3 anni fa, di Matteo Boniciolli, è per ricordare che è stata quella l'ultima vittoria degli umani in Italia. 2008, Bologna, Avellino batte Virtus Bologna 73-67. Montepaschi eliminata, pensate un po', ai quarti da Pesaro. C'è stato un remake ieri di questa partita, è finita in modo diverso perché in quel caso vinse la Scavolini 78-77. Dunque l'ultimo allenatore a toccarla, diverso da Pianeggiare, a toccare quella coppa, Matteo Boniciolli. Ciao coach. Ciao, buongiorno a tutti. Non si vive di soli ricordi, ma questi sono belli. Sì, sono belli, poi sono un po' più, diciamo, sono meno belli l'anno successivo, con Bologna abbiamo perso di un punto, quindi anche là ci siamo andati abbastanza vicino. Sì. Però sono bei ricordi, nel senso che è stata una vittoria importante con una squadra, secondo me, fantastica, un gruppo di gente che ha continuato a far bene anche in altre squadre e un coinvolgimento di tutta la città formidabile. Coach, formula che piace poco a voi allenatori, ma onestamente molto bella per chi la guarda. Ma devo dirti che a me piace, non so a chi non piaccia, a me piace molto, nel senso che l'eliminazione diretta aggiunge suspense a un risultato che sul lungo andare in Italia è segnato da tempo. Nella partita secca può succedere di tutto, quindi onestamente è una formula divertente, una formula che produce adrenalina, che piace al pubblico che viene a vedere partite secche, e quindi onestamente io trovo sia una bella formula non è un caso che tutta Europa, tranne credo in Grecia, si faccia sempre così. Sì, non piace ad esempio a Pianigiani, forse anche perché questo sembra essere l'ultimo recinto, in cui l'ultimo ring sul quale Siena può essere stesa in una partita secca. Sì, sul lungo andare è chiaro che la loro organizzazione, le qualità della squadra, il roster profondissimo pagano sempre. In una partita secca, io mi ricordo anche l'anno di Bologna, mio, cioè due anni fa, sia il quarto che la semifinale di Siena furono partite sofferte, insomma, anche contro di noi, diciamo, vincere di un punto con gli ultimi tre possessi a noi fu, voglio dire, una grande impresa anche da parte loro. Quindi è chiaro che sulla partita secca anche Siena rischia. Occhi su Milano, coach. Il vento buono sembra passato, restano problemi vecchi. Vento buono portato da Peterson, adesso riemergono problemi che sono ancora lì da risolvere, a quanto pare, a guardarla da fuori. Ma guarda, il coach con grande saggezza e con la superiorità che gli dà una carriera ineguagliabile ha ricordato quello che diceva il professor Nicolis tanti anni fa, cioè che un cambio di allenatore dà frutti nell'immediato, spesso, non sempre, perché i giocatori vogliono fare del qualcosa, poi dopo alla fine i problemi che ha una squadra strutturali, emotivi, caratteriali, sono problemi che poi è difficile modificare, insomma. Quindi sì, credo che Milano paghi i problemi che aveva con Piero, no? Sì. Non credo che, con tutto rispetto per Peterson, sì, ha insegnato basket a tutti quanti noi, insomma. Tra l'altro tu, se non ricordo male, vincesti la Coppa Italia calando sul campo la 1-3-1, una inedita 1-3-1 nel secondo tempo, o ricordo male? Sì, no, è un ricordo giusto. Diciamo, noi la preparammo senza farla vedere. Questo è proprio un insegnamento che ebbi dal professor Nicolis quando collaboravamo a Trieste con Bogdan Tanjevic. La lavorammo per 3 settimane prima di arrivare alla competizione, in modo tale di avere qualcosa che nessuno potesse, sì, contro la quale nessuno potesse lavorare, e soprattutto per avere qualcosa che desse fiducia ai giocatori, se non abbiamo qualcosa che nessuno conosce. Nel momento in cui Bologna stava per prendere il sopravvento, piazzammo la 1-3-1 e ci servì per fermare l'inerzia, per riprendere Bologna e per batterla in finale, insomma. Quindi fu un risultato importante, e un anno di difesa che ci diede molto. Quindi non è un ferro vecchio? No, assolutamente no, assolutamente no. È chiaro che meno la usi più diventa efficace, certo, perché certo, è una difesa molto, diciamo, di grande risparmio energetico e anche molto psicologica come tipo di difesa. Se becchi un tiro dall'angolo all'inizio cominci ad avere difficoltà, certo. È chiaro che, fra virgolette, è molto più prevedibile che la usi Peterson che la usi Matteo Bonisoli. Certo. Senti, no, coach, cioè, sì, po' sì. Senti, problemi che è lontano da risolvere anche Roma, e so che qui di toccare una ferita ancora aperta per te, ma non ho capito bene come vi siete lasciati con Roma. Ma insomma, diciamo abbastanza bene. Poi è chiaro che ognuno, almeno, è legittimo restarci male, ma credo che il validissimo collega che mi ha sostituito abbia gli stessi problemi che ho avuto io tutta la stagione, sì, cioè che non ci sono i giocatori. Sì, sì, tutto lì. Poi è chiaro, ma insomma prevalentemente, poi dopo naturalmente ognuno ha le sue responsabilità, anch'io ho le mie, come al solito e come è normale che sia, paga chi allena, ma questa è una cosa che sappiamo. Sì, però perdonami Matteo, però non è possibile che tutti gli anni, a prescindere da chi allena, arriva Natale o il periodo di Natale e Roma deve cambiare allenatore perché ha gli stessi problemi di sempre. Ma vabbè, queste sono cose delle quali bisogna parlare con chi a Roma è rimasto, non con me. Io dico soltanto che, diciamo, abbiamo pagato un forte dazio alla tra l'altro mancata qualificazione della squadra nazionale agli europei, perché Gigli lo scafoide se l'è rotto in nazionale. Da Tome lo stesso, durante la preparazione si è rotto il setto nasale Heitfeld, appena le cose stavano cominciando ad andare bene, non a caso nell'unica partita che abbiamo giocato al completo, quella di Bamberg, si è rotto il crociato Giacchetti. Una stagione cominciata male, con tanti infortuni che non ci hanno mai consentito di allenarci assieme. Continuo a pensare che questa sia una buona squadra e auguro al mio successore di averla al completo come io non ho mai avuto occasione di averla. Settimana scorsa era qui con me a farmi compagnia Oscar Eleni, che ha avuto parole molto critiche nei confronti di qualche tuo giocatore, segnatamente di italiani, segnatamente di Datome, di Crosariolo, un po' Peter Pan, che non crescono mai completamente. Ma tu sai qual è la mia posizione rispetto a... Il problema non è questi italiani, questi sono gli italiani che abbiamo. Il problema è che i presidenti, quando li pagano di più di quello che valgono, per delle regole che non hanno assolutamente senso di esistere, si dispiacciono di più di quello che dovrebbero dispiacersi per delle aspettative che vengono puntualmente tradite. Nel senso che uno pensa di avere 5 decimi della nazionale e giustamente pensa di avere una squadra buona. Sì. Invece la nostra è una squadra nazionale che, nonostante piani gialli di aerei privati, il preparatore atletico dell'NBA non si è qualificata nelle prime 16 squadre d'Europa. Non è che, voglio dire, e quindi non si capisce per quale motivo, arrivati nei club, questi giocatori che sono dei bravissimi ragazzi, delle persone che si allenano con grande impegno, sì. ma che semplicemente non valgono i soldi che vengono pagati, non perché loro non siano bravi, ma perché, come dico da anni, un bicchiere d'acqua nel deserto costa di più che nel bar sotto casa. No, ma su questo siamo perfettamente allineati, è un discorso che abbiamo fatto tante volte, trovandoci peraltro d'accordo su questo punto. Senti coach, io ti chiedo ancora una cosa, perché è un uomo della tua terra, che veniva dalle tue terre, Cesare Rubini, per te personalmente che cosa ha rappresentato? Ma io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è chiaro, con la distanza di un assistente allenatore della nazionale quando vincevamo i campionati europei, a fronte del mito che stava con noi a quel tempo. Proprio l'altro ieri guardavo con mia moglie una foto in cui si festeggiava la medaglia d'oro di Parigi con lui in mezzo a noi. È chiaro che è stato un uomo che ha cambiato la storia dello sport italiano, soprattutto inventando quella figura dell'allenatore manager. Adesso si parla di Ferguson, cioè di questi grandi personaggi dello sport attuale. Lui ha fatto la stessa cosa 50 anni fa. Sì. Quindi solo questo, al di là della sua grande personalità, dei successi, delle intuizioni, del fatto di munirsi 50 anni fa di un assistente sul prototipo dell'NBA, no? Cioè di Sandro Gamba, che era l'allenatore tecnico della squadra, e lui che faceva soltanto, diciamo, soltanto, che faceva la gestione. Quindi una persona di livello assoluto, che ha dato al basket italiano molto, come tante altre persone che vengono dalle mie parti hanno dato, da Pino Brumati, che abbiamo perso qualche giorno fa, a Giulio Iellini, a Renzo Vecchiato, cioè tutto quel gruppo di Giuliani, diciamo, Tristini Giuliani, che andarono a Milano facendo grande l'Olimpia. I muri che partirono per Milano e da lì nacque la pallacanestro italiana. Coach, torna presto perché mi manchi un po', su una panchina. No, sul serio. Non dipende da me. Lo so che non dipende da te, però fai presto comunque. Sarà il possibile. Un abbraccio. Grazie. Ciao coach. Grazie a Matteo Moriccioli. Adesso vorrei, prima di fermarmi per la borsa, un minutino, Giuseppe da Caserta, prima Alessandro da Piacenza, dopo la borsa. Giuseppe, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. La Coppa Italia, vabbè, scontato, chi la vincerà, perché scommetto che la brucia tiene sfidata. Vediamo. Facciamo una proposta stile anni 80, che c'era con la mitica Olimpia. Sì. Andiamoli a giocare in NBA, ci divertiamo tantissimo, secondo le senza di loro. Da morire. Sì, gli anni 80 doveva andare Milano. A Milano fare la franchigia italiana. La 24esima squadra NBA, quella fu una delle più geniali trovate di Coach Peterson, no? Che si inventò questo slogan. Siena mi sembra un po' poco per l'NBA, ma anche per l'Eurolega, come stiamo vedendo, è lì aggrappata coi denti. Certamente per il campionato italiano, su una serie lunga è imbattibile, su una partita secca, l'abbiamo visto anche ieri sera, per 31 minuti con la Scavolini al 31esimo, la Scavolini era avanti di 2, 55 a 53 se non ricordo male, ma non ricordo male. Poi è chiaro, è finita come è finita, però Siena su una partita secca è attaccabile, sarà attaccabile anche da una Montegranaro che è corta ma forte, perché sul primo quintetto Montegranaro se la può giocare. Poi è chiaro che la difesa di Siena ti spreme. Vediamo quanto riuscirà a resistere Montegranaro e vediamo poi cosa succede dopo. Su una partita secca, questo ripeto, è l'unico ring sul quale Siena può essere stesa. La partita singola. Ci sentiamo dopo la borsa. Palla spicchi. Dunque, c'è chi fa un po' di pretattica, come Luca dalla provincia di Milano, scrivendo: Biella in forma, Cantù manca a tavolo e Marco Nato è a mezzo servizio. Da tifoso bianco-blu dico che stasera rischiamo. Vero tutto questo, però Cantù, a prescindere dalle assenze di Tavo e da Marco Nato a mezzo servizio, è comunque una squadra estremamente solida, che ha un'anima vera e secondo me rimane comunque favorita pur contro una Biella che ha giocato una partita splendida a Milano, facendo ciò che per la verità Milano le ha permesso di fare, quindi un sacco di tiri aperti con elevate percentuali. C'è chi scrive un'opinione che però mette il dito su un punto, che è questo: era a favore di una coppa in diverse città ogni anno, cioè in una città diversa ogni anno, ma che tristezza le tribune vuote, quelle di Torino di ieri, meglio Bologna per sempre, scrive Guido da Milano. Alessandro da Piacenza, buonasera. Buongiorno Sandro. Buongiorno, sono assolutamente un neofita del basket, tanto che la prima partita della mia vita l'ho vista domenica scorsa quando hanno fatto Biella Milano, sì. Milano-Biella. Sì. Volevo chiedere due cose. Prego. Le è piaciuta? Sì. La prima partita della sua vita? Anche se io tifavo ovviamente per Coach Peterson e purtroppo sì. È andata male. Sì. Però dicevo, la prima cosa è di che nazionalità è questo Edgar Sousa, che veramente mi ha impressionato in una maniera pazzesca. E la seconda è come mai Moraschini ha deciso di fare il coach, mi sembra che sia cancelliere di Biella, se non sbaglio, ha deciso di farlo playmaker, farlo giocare playmaker, come mai? Questo bisogna chiedere a Cancellieri, perché ci possano essere. Grazie a lei Alessandro, spero si sia divertito al di là della sconfitta di Coach Peterson e che torni alla pallacanestro. Di solito è un gioco strano, perché è come la carta moschicida: quando ti cattura non ti molla più da spettatore, ma anche da giocatore, insomma. Edgar Sousa è americano e quanto a Moraschini lo chiederemo a Cancellieri quali siano le sue idee sull'utilizzo di questo giocatore. Walter Fuochi, penna storica del nostro basket di Repubblica. Ciao Walter. Cioè storica vuol dire che sono piuttosto anziano. No, storica vuol dire vabbè. Tutto insomma. Senti, questa storia delle tribune mezze vuote di Torino in effetti è stata l'unica nota stonata di ieri sera, di questa prima giornata. Non mi aspetto molto di diverso dalle partite di questa sera, magari domani che è sabato, certamente domenica avremo spalti un po' più affollati. Ma io non credo che sia la scoperta dell'America constatare che non c'era tanta gente un giorno feriale in una città abbastanza disabituata al basket, insomma era abbastanza prevedibile, dov'è che si riempie? Sì, fece una buona riuscita l'anno scorso ad Avellino, anche perché c'erano due squadre del posto, Avellino e Caserta. Di solito le cose funzionano a Bologna, ma mi sembra che anche qua funzionino sempre meno, ma che a Torino la prima sera vadano 2000 persone è normale, prevedibile. Chissà l'effetto Peterson, hai sentito, c'è un ascoltatore di Piacenza che dice: sono un neofita, la prima partita l'ho vista domenica a mezzogiorno a Milano perché c'era Coach Peterson, non me lo volevo perdere. Senti Walter, Siena non è al momento una tempesta perfetta, non riesce a spremere alcuni minuti di difesa di inarrivabile bellezza e precisione tecnica. In attacco deve affidarsi al canovaccio e a un protagonista diverso ogni volta. Sì, Siena fa fatica a issarsi a 80 punti e quindi sotto gli 80 punti è potabile per molte. Poi è chiaro che farglieli è un problema. Ad esempio Pesaro ieri sera è riuscito a far canestri per tre quarti e nel quarto quarto invece poi ha riscoperto la dura legge. È più addentabile del solito, però poi si vede che anche in Europa la sua difesa paga, soprattutto nell'ultima partita a Belgrado, quindi in Italia dovrebbe pagare delle assolute certezze. Sì, la si può attaccare, ma rivoltiamo la domanda: chi la può attaccare? Non è che la concorrenza sia ferratissima. Sì. La Bologna vista ieri sera è stata una roba penosa. Sì. La Milano vista nelle ultime due partite più che penosa. Cantù abbiamo detto, vediamo. Innanzitutto ostacolo Biella e poi domani sera potrebbe profilarsi all'orizzonte un derby classico della nostra pallacanestro. Rinaldo dalla provincia di Fermo invece magari vuol parlare di quelli per i quali è la prima volta. Buongiorno Rinaldo. Bravo, buongiorno. Vero? Innanzitutto grazie per le belle parole, mi scuso per l'emozione, però ecco, un argomento di cui volevo parlare era quello di cui avete già parlato ora, riguardo al pubblico non presente in Torino. Sì. Per noi è distante Torino, penso che sia distante anche per Siena o per altre, sì, e che magari sono ancora più a sud di noi. Sì. E quindi sarebbe preferibile Bologna, che è molto più alla portata di tanti che vogliono andare a vedere la partita, tifare per la propria squadra. Sì. Sì, un altro discorso, sì, sì. Speriamo che domani sera noi qui in Monte Granaro, e ci speriamo molto, di riuscire a fare quello che Pesaro non è riuscito a fare. O meglio, che è riuscito a fare per 31 minuti e poi ha finito la benzina. Di trovare la Montegranaro di 2 settimane fa, che finalmente ha fatto veramente penare, sì, come dei disgraziati Siena. Sì, sì, certo, ma anche la Montegranaro di ieri sera non era affatto male. Io credo che Montegranaro sul primo quintetto se la possa giocare. È chiaro che è una squadra corta, e una partita con Siena ti richiede una montagna di energie, no Walter? Sì, ci vogliono molti giocatori, bisogna distribuire le forze su molti giocatori. Il Montegranaro ne ha solo 7, adesso bisognerà verificare se Maestranzi sia in grado di dare qualcosa o meno. I 7 sono ampiamente bastati per Bologna, difficilmente basteranno per Siena, a meno che non siano i magnifici 7, però insomma da qualche parte devi trovare una risorsa super per battere i migliori. La scommessa è tutta lì. È tutta lì, fare più del 100%, ci vuole il 101%. Sì, certo che ad esempio Cavaliero ieri sera non sarà come Region Rondo, come prima ha detto Coach Peterson, però è un giocatore che almeno ha nascosto l'assenza di Maestranzi. Con una Bologna senza anima te lo puoi anche permettere, contro Siena diventa difficile rinunciare alle rotazioni. Sì, Cavaliero sta giocando spesso partite come quella di ieri sera, anche perché sembra essere stato restituito al suo ruolo naturale, che è soprattutto di guardia, non di playmaker. È un giocatore micidiale, se ha un metro di libertà, è anche molto creativo. E viceversa, io ricordo ai tempi qua di Bologna, quando giocava nella Fortitudo, era uno dei giocatori più fischiati, benché fosse molto giovane. Però all'epoca si insisteva a farlo giocare playmaker, come forse non è la sua vocazione. Però sono d'accordo con Peterson, questo è un giocatore che se ha un metro di libertà non conosce né il primo né l'ultimo minuto, può decidere le partite. Questo è vero, questo è vero. Ben vengano questi giocatori, perché di solito abbiamo i soldatini. Sono quelle caratteristiche che nessuno ti può insegnare. Grazie Walter, in bocca al lupo, grazie. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Io voglio far entrare in partita invece professor Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Senti, cosa ti ha lasciato questa prima giornata di Coppa Italia? Cosa ti ha lasciato negli occhi questa prima giornata di Coppa Italia? Ma nulla secondo me di particolarmente sorprendente, posto che mi aspettavo che Montegranaro avesse la possibilità di vincere con la Virtus, magari non necessariamente di vincere in questa maniera, quindi come dicono in America wire to wire, dal primo all'ultimo minuto in testa, controllando sempre la partita, e l'idea che Siena sappia come vincere, però non sia naturalmente Siena a pieno carico, perché Michele Belavrinovic non ci sono sostanzialmente. Sì. Sì, è anche vero che Pesaro per 31 minuti ha fatto una grande partita, con Collins con problemi, si è fatto male subito, pur lottando con i suoi limiti ha fatto una grande partita Pesaro. Ma Pesaro è una squadra molto ben allenata, che come tutte le squadre del Monte è in grado di giocare un attacco di elevata qualità, magari non necessariamente è capace di variare tantissimo, ma quello che fa lo fa molto molto bene. E soprattutto Dal Monte ha una conoscenza dall'interno del sistema di Siena che gli ha permesso di fare delle scelte molto semplici e molto efficaci. Poi contro Siena il problema, ma non solo per Pesaro, diventa vincerla negli ultimi 10 5 minuti a parlare del quarto periodo e a spiegare tante cose. Certo. Però stai lì, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi vorrei fare altre due chiacchiere con te in prospettiva questa sera e su questi giorni che sono un po' storici a modo loro per, anche per l'NBA. Ci fermiamo, traffico. Palla spicchi. Si avvicina un'ora già cruciale per la stagione dell'Armani Jeans, caro Flavio Tranquillo. Ore 18 di oggi, Milano contro AIR Avellino, vale più di una partita, probabilmente più di una semifinale di Coppa Italia, perché è una prima risposta, credo. Sicuramente siamo tutti molto curiosi, altrettanto sicuramente vincere non garantisce il raggiungimento di determinati obiettivi e perdere non li compromette di per sé stesso, però siamo curiosi, è naturale, perché questa è una delle poche occasioni, quella della Coppa Italia, non solo quella di questa partita, ma se ce ne saranno altre di tutta la manifestazione, non è la poche occasione in cui Milano si può veramente misurare con i propri obiettivi, posto che questo è un campionato in cui puoi perdere in casa con Biele, puoi perdere su sostanzialmente tutti i campi, però il vero metro di giudizio per Milano è: riesce perlomeno ad andare in finale di Coppa Italia, cosa non è mai riuscito a fare nella storia recente, riesce perlomeno a giocare se non a battere Siena laddove riuscisse a trovarsela di fronte, laddove Siena dovesse battere Montegranaro. Queste sono domande che sicuramente aspettano una risposta. Certo. Dicevo, spicchio temporale storico nell'NBA. Nella notte Ray Allen, pur perdendo contro i Lakers in casa, 2562 tiri da tre punti, il più forte tiratore da tre punti della storia. E poi, Flavio, un altro grande personaggio, Jerry Sloan, che 23 anni dopo lascia Utah. Questo è veramente un grosso shock. Un grosso shock è una notizia che ha preso tutti il contropiede, e ieri notte c'era un grande turbinio di SMS qui nella comunità cestistica che è sostanzialmente riunita a Torino. Ci dice molto il fatto di Sloan, delle tensioni competitive che ci sono nell'NBA, non solo quelle in campo, quelle le vediamo, ma le tensioni competitive dietro le quinte in una professione, in un contesto così stressante, con così tanti soldi che girano, che comunque può girare attorno a un pallone, un infortunio, un fischio, eccetera, eccetera. E lì anche Jerry Sloan, che tu dici dopo 23 anni ormai è completamente stabilizzato, conosce tutto, può succedere che dalla sera alla mattina prenda cappello o abbia, come dire, elegantemente delle incomprensioni e se ne vada. Tra l'altro ha appena inchiostrato il contratto per l'anno prossimo, quindi veramente una decisione a sorpresa. C'è chi dice, per contrasti con Deron Williams, lui ne è uscito in maniera elegante dicendo: ho avuto contrasti con tutti i grandi giocatori che ho allenato, non è questo il problema. Poi la verità vera la sa lui Deron Williams e il club, credo. Assolutamente, dicevo prima, è quello che succede, loro dicono behind the scenes, dietro le scene, dietro le quinte, è quello che succede lì, lo sanno veramente in pochissimi, ed è il tipo di cosa di cui poi tu da fuori puoi vedere gli effetti, a volte clamorosi come questo, ma le cause, conoscerle e discernerle è un po' complesso. Black Jesus Ray Allen, che ha vissuto un momento bellissimo, no? Ieri sera l'ho visto in diretta quel canestro in transizione, passaggio di rondo, lui che arriva arresto, tiro bellissimo, sempre il tiro forse più bello che ho mai visto, quello di Ray Allen, da vedere esteticamente. La cosa straordinaria è che è il tiro più bello da vedere, e comunque c'è una cosa migliore di quel tiro da vedere, ed è quello che lui fa prima di quel tiro. Sì. È un giocatore per palati veramente fini, veramente finissimi, l'equivalente di un piatto da super gourmet nel basket. Sì. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Abbraccio, grazie a Flavio Tranquillo. Fabrizio da Livorno, e poi come ogni venerdì in Epoca di Sei Nazioni parleremo un attimo di rugby per presentare il weekend che ci aspetta. Fabrizio. Sì, salve, volevo fare una considerazione e ricevere il vostro giudizio. Sì. Per quanto riguarda il campionato d'Italia, che Siena sta dominando in largo e lungo ormai da qualche anno, io ho 40 anni, sono livornese, quindi un po' di basket credo di averlo visto. Sì, sono cresciuto con i playoff, che anche la finale veniva fatta al meglio di 3 partite. Sì. Oggi 5, 6, 7 partite che possano essere di finale, chiaramente è impossibile battere Siena. Tornare indietro alla vecchia formula per portare eventualmente un pochino più di risposta, grazie. Sì, Fabrizio, il problema è che dobbiamo adeguare le regole alla forza di Siena, questo mi sembra leggermente perverso. La verità è che gli altri dovrebbero imparare la strada per arrivare a giocarsi 7 partite eventuali di finale contro Siena, quindi non dobbiamo modificare le regole sulla forza di Siena. Questo è il termometro purtroppo della febbre della nostra pallacanestro, che è reale. Adesso ci fermiamo un attimo perché do la palla a Dario Ricci per presentarci il weekend delle Sei Nazioni che ci aspetta. Sentiamo dopo per i saluti. Speciale Sei Nazioni. Sconfitta onorevole, vittoria mancata, occasione persa. Beh, chiamatela come volete, ma l'Italia che va a Twickenham contro l'Inghilterra ha un obiettivo solo: dimenticare l'Irlanda, la sconfitta del Flaminio contro i Trifogli, quegli ultimi minuti che hanno già segnato la storia del nostro Sei Nazioni e che abbiamo vissuto insieme qui a Radio 24 dalle tribune del Flaminio. È meta! 76esimo di gioco, 11-10, non è stato trasformato il calcio di Bergamasco, siamo sull'11-10, 11-10 per l'Italia. È arrivato il drop di O'Gara, Tirland è andata a costruire le condizioni ideali all'altezza dei 22 metri per il drop di O'Gara che ha appunto trasformato. Allora Irlanda che torna avanti, Irlanda 13, Italia 11, quando mancano 2 minuti più recupero, è finita il Flaminio, Irlanda 13, Italia 11, per gli azzurri gli applausi del pubblico, del popolo del rugby italiano, ma ancora una volta chissà se basteranno. Tra infortuni e scelte tattiche, Mallet cambia 4 uomini rispetto alla sfida con gli irlandesi. Mediana inedita con la coppia Orchera-Cannavosio, poi Bernabò al posto dell'infortunato Soule e del Fava titolare per Della Pè. Il team manager azzurro Luigi Troiani. Sabato ce ne danno in campo McLean, Masi, Canale, Sgarbi e Mirko Bergamasco. E Luciano Orchera e Pablo Cannavosio, in terza linea andranno Sergio Parisse, Alessandro Zanni e Valerio Bernabò, in seconda Quintin Caldenais e Carlo Del Fava, in prima linea Castro Giovanni, Ghiraldini e Perugini. Difficile, ad essere onesti, che il riscatto possa arrivare contro gli inglesi, forti del successo in Galles della prima giornata e favoriti per il grande slam. Illuminati dai lampi di Flood, capace anche di un 5 su 5 ai calci contro i gallesi, e dalle volate di Ashton, i bianchi hanno in Cole, rivale di Castro Giovanni per una maglia da titolare nell'Leicester, il perno della mischia. Quando serve poi dalla panchina si alza l'eterno Johnny Wilkinson, che pure ha messo il sigillo alla sfida coi dragoni. Un'Inghilterra cui Martin Johnson ha saputo regalare una nuova dimensione di gioco, come spiega Carlo Orlandi, allenatore degli avanti azzurri. Beh, tutte queste partite delle Sei Nazioni sono molto difficili, giocare fuori casa là in Inghilterra in un momento che l'Inghilterra sta andando bene, ha un attimino cambiato il loro gioco, lo muovono un po' di più la palla, dunque ci aspettiamo non un'Inghilterra conservatrice, o almeno speriamo di farla diventare, perché abbiamo visto col Galles negli ultimi minuti che il punteggio era in bilico, è ritornato un attimino sul gioco dell'Inghilterra, un gioco vicino, un gioco di forza con gli avanti. Ci aspettiamo però dei grossi sfide individuali con i loro tre quarti che sono molto potenti e veloci. Opinione condivisa da Fabio Semenzato, 24enne mediano di Mischia di Treviso, convocato al posto dell'infortunato Gori. Loro sono una squadra molto fisica sia davanti che dietro, quindi proveranno a imporsi. Si vedrà tutto secondo me nell'uno contro uno, giocatore contro giocatore farà una gran differenza. Sabato alle 18 in campo anche Scozia e Galles, scozzesi che confermano il 15 che ha ben impressionato pur perdendo a Parigi contro la Francia. Per i dragoni Hook sarà l'apertura al posto di Stephen Jones. Domenica poi Irlanda, Francia e Verdi, salvatisi con l'esperienza al Flaminio, recuperano Hislip. Tra i galletti l'estremo sarà Potrenot. Per il Sei Nazioni femminile stasera proprio Irlanda-Francia, domenica Scozia-Galles, mentre sempre domani tocca anche alle azzurre contro le inglesi. Dopo il KO di Rovigo con le irlandesi ci aspetta un'altra battaglia. Il capitano Paola Zangirolami. Bisogna tenere sempre la testa alta e andare avanti, insomma le partite sono ancora tante, siamo solo all'inizio, quindi è inutile demoralizzarci, insomma. Gli inglesi sono, tra virgolette, molto più grosse rispetto a tutte le altre squadre, insomma, quindi sicuramente la metteranno sul punto della fisicità loro. Vi ricordo i prossimi appuntamenti col Sei Nazioni su Radio 24, il sabato e la domenica in A Tempo di Sport a partire dalle 17 e poi gli approfondimenti negli speciali mattutini del fine settimana e del lunedì e nelle varie edizioni di GR 24. Buon rugby a tutti da Dario Ricci. Sponsor della Nazionale Italiana Rugby. Vi ha presentato Speciale Sei Nazioni. Ma of course, Dario Ricci con il rugby, ci sentiamo domani pomeriggio, sarà il tema conduttore del nostro pomeriggio del sabato dalle 17 alle 18, parleremo di rugby, resteremo in cronaca da Twickenham su Inghilterra-Italia, ma poi naturalmente parleremo anche d'altro. Torneremo anche sull'argomento di Coppa Italia perché domani sera avremo le semifinali, tra chi lo scopriremo almeno per la parte destra del tabellone questa sera. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Torniamo domani alle 17, vi aspetto.